Giallo e nero, tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Sardegna, terra e sparo, se sparo è de fogo, de fogo e de sparo, Sardegna se terra. Lula, provincia di Nuoro, è martedì 25 novembre 2003. Una sera triste e scura, piove. Il maestrale non smette un attimo di soffiare e dalle rocce bianche del Monte Albo si infila agghiacciato tra le stradine del paese. Luisa Manfredi, studentessa di 14 anni, è figlia maggiore del bandito Matteo Boe, è a casa con la sorella più piccola Marianna di 10 anni. La madre Laura e il fratellino Andrea sono usciti, ospiti di una famiglia che abita poco lontano dalla loro villetta alla periferia del paese. Fuori è già buio, sono da poco passate le 18.30. Luisa si sta preparando per andare a lezioni di ballo sardo, ma quella sera Luisa non uscirà mai, perché quella sera Luisa viene ferita a morte, colpita nel terrazzo di casa da un unico colpo di fucile calibro 12. Luisa si accascia sul balcone, respira ancora. L'ambulanza arriva in 15 minuti, viene trasportata all'ospedale di Nuoro, ma Luisa non riprenderà più conoscenza. Muore il giorno successivo, poco dopo le 18, durante un ultimo disperato tentativo dei medici di salvarle la vita. 1.678 abitanti, 188 aziende agricole, 6.355 euro di reddito annuo pro capite. Nascosta nel cuore della Sardegna, 35 km a nord-ovest di Nuoro, protetta dalle rocce calcaree del Monte Albo, immersa tra terre rigogliose, ricchi pascoli, ginepri e corbezzoli. Questa è Lula, il paese dove per 11 anni le istituzioni sono state assenti, la politica è stata portata avanti con gli attentati e le minacce, e i violenti, i proiettili e le bombe hanno governato indisturbati. Un paese tormentato, prigioniero di quei pochi che non si fermano davanti a niente. Così, sino al 27 maggio del 2002, quando l'avvocato Maddalena Calia viene eletta sindaco. È il ritorno dello Stato. Un messaggio forte delle istituzioni, una risposta decisa del Paese. Dopo alcuni mesi di tregua, però, riappaiono le lettere anonime, piene di minacce, le scritte infamanti sui muri, le auto incendiate. Rimbombano di nuovo i rumori degli spari. Ritornano le intimidazioni, gli attentati ai politici, gli attacchi alle forze dell'ordine. E ora, l'uccisione di una ragazza di 14 anni. Lula è un paese che conosce il silenzio, il dolore, la rabbia e la paura. Ha pianto alla morte di Luisa, ma non vuole fermarsi, non vuole farsi assediare. Sentiamo il sindaco, Maddalena Calia. È chiaro che la situazione dal punto di vista sociale, è abbastanza compassata, perché è una tragedia grandissima per una comunità come la nostra, che ha vissuto in modo anche abbastanza intenso. La stragrande maggioranza della popolazione mi telefona, perché molte persone non hanno neanche il tempo di venire in comune, per dirmi di andare avanti, di procedere, assolutamente, perché purtroppo ogni comunità vive delle tragedie, più o meno grandi, e soprattutto le comunità dell'interno, delle zone dell'interno. Tuttavia si deve andare avanti, perché non è che una comunità si blocca perché succedono dei fatti che sono drammatici, insomma. E quindi la comunità, nonostante tutto, ci incoraggia ad andare avanti. Le tragedie vanno anche rielaborate dalla comunità per continuare, per proseguire ad andare avanti, anzi, nella speranza che in qualche modo ci insegnino qualcosa e veramente ci diano la spinta per migliorare, affinché queste cose non succedano più. Luisa era una ragazza brillante, dinamica, serena, figlia prediletta di un bandito che per proteggerla non le aveva dato il suo nome. Era nata in Francia, ma Lula era cresciuta e Lula era diventato il suo paese, il suo piccolo mondo, così come lo era stato per suo padre, simbolo di quel paese sempre in conflitto con la legalità. Era il bandito intellettuale, il sequestratore spavaldo, ribelle e inafferrabile. Uomo istruito e sensibile, che amava profondamente la propria terra, pronto a tutto pur di proteggerla. Figlio di pastori di Lula, Matteo Boe studia all'Istituto Tecnico Agrario di Nuoro. Dopo il diploma, l'iscrizione all'università e il trasferimento a Bologna. Lì Matteo conosce la futura compagna Laura Manfredi e sempre lì si avvicina al mondo degli emigrati sardi, dell'autonomia, del banditismo. Il 26 ottobre 1984 la Corte d'Assise di Firenze lo condanna a 16 anni di reclusione per il sequestro di Sara Niccoli, 17enne toscana, rapita a Pistoia il 2 luglio 1983. Poi viene rinchiuso nel carcere di Massa, poi a Porto Azzurro e infine all'Asinara, da dove riesce ad evadere grazie alla complicità della compagna il 1 settembre 1986. Di lui si perdono le tracce. Si sospetta però che sia coinvolto nel sequestro del costruttore romano Giulio De Angelis e dell'imprenditore sassarese Salvatore Scanu. Il 15 gennaio 1992 rapisce a Porto Cervo il piccolo Farouk Kassam, poi liberato a luglio dopo il taglio dell'orecchio e il pagamento del riscatto. Il 13 ottobre è un martedì. Dopo poco più di 6 anni di latitanza, Matteo Boe viene arrestato. Era all'hotel Su Palmo di Porto Vecchio, in Corsica, con la compagna e i figli Luisa e Andrea. In tasca un falso documento d'identità, intestato a Giulio Manca. Boe viene rinchiuso nel carcere di Ajaccio, poi a Bastia e Parigi. Infine, dopo l'estradizione, nel carcere di massima sicurezza di Spoleto, dove attualmente sta scontando una pesante condanna che comprende anche i 20 anni di reclusione inflitti per il sequestro di Farouk. Matteo Boe incontra per l'ultima volta la figlia Luisa il 16 dicembre del 2002. Fa ritorno a Lula in permesso speciale, riabbraccia la madre malata, rivede la compagna e i suoi 3 figli. 11 mesi dopo Luisa viene uccisa. L'ex bandito non assiste al funerale della figlia, troppo pericolosa la sua presenza a Lula. Si parla di una visita segreta, si aspetta il suo arrivo. Il 30 gennaio, infine, è ritorno in Sardegna a Nuoro, nel carcere di Bado e Caros, e da lì ancora una volta a Lula per ritrovare i propri familiari, per provare a scoprire, cioè attraverso le loro parole, che cosa è realmente successo. Sentiamo Pierluigi Piredda della Nuova Sardegna. Matteo Boe è rientrato a Lula dopo circa un anno. Per la prima volta era stato un ritorno silenzioso, quasi come questo. Un uomo sempre molto duro dal suo viso, il tratto durissimo, la gente l'ha accolto in maniera strana, cioè senza clamore e allo stesso tempo senza enfasi, cioè molto serena, come se fosse diventato un suo figlio che ha sbagliato. Lui sta cercando di capire cosa è successo e proprio questo, secondo me, sono i suoi continui rientri a casa, oltre il fatto che la madre sta male, però lui sta cercando di capire cosa sta succedendo al suo paese, un paese che per anni è stato sereno, che lui ha conosciuto molto bene, ma sicuramente l'attacco non è rivolto a Boe, cioè a Matteo Boe non è rivolto, perché nonostante quel che è successo, nonostante il passato, Matteo Boe continua ad avere molti amici, amici che sono amici al di là di tutto, che riconoscono che lui ha sbagliato, ma che comunque non hanno abbandonato, anche se lui è uno molto duro, ha comunque lasciato un ricordo di sé, di prima di diventare un bandito, ha lasciato un ricordo di sé, tra l'altro molto bello, del giovane che la mattina, essendo rimasto orfano molto, molto presto, la mattina prima di andare a scuola andava a mungere il bestiame, poi era a scuola stremato, dopo 2 o 3 ore di... già di lavoro alle 8 del mattino. Ecco, il ricordo che la gente ha di lui è anche questo, cioè di un ragazzo normale, esuberante, che poi chissà cosa sia successo, quando è andato fuori è tornato diverso. Un caso complesso, perché è stata uccisa una ragazza di 14 anni e perché era la figlia di Matteo Boe. Per questo si pensa subito alla vendetta trasversale nei suoi confronti, oppure ad uno scambio di persona con la madre Laura, che poteva essere il vero bersaglio dell'agguato. Poi però le indagini si spostano verso altre direzioni, si segue la pista del delitto passionale, del gesto di follia, dell'errore di una mano inesperta, dell'avvertimento finito per sbaglio nel sangue. 2 ragazzi, lulesi, vengono iscritti nel registro degli indagati come persone informate sui fatti, poi solo silenzio. Sentiamo il colonnello Salvatore Favarolo, comandante provinciale dei Carabinieri. Le indagini stanno proseguendo, stiamo verificando la posizione di alcuni soggetti, vagliando già elementi acquisiti nel corso delle prime indagini, e le maggiori difficoltà che stiamo incontrando sono dovute al fatto che non abbiamo, insomma, siamo in una realtà particolare, non esiste collaborazione da parte di chi che sia, questa è la difficoltà più evidente. Non abbiamo finora avuto questa possibilità. Comunque non c'è da questo punto di vista non c'è da meravigliarsi, perché la realtà barbaricina è quella che è, insomma. E purtroppo questa è una peculiarità che hanno queste zone, dove non la gente proprio, anche se è rimasta colpita dal fatto, però poi nei fatti non c'è questa collaborazione come invece si può verificare in altre realtà. Matteo Boe è tornato nel carcere di Spoleto al termine delle 5 visite effettuate a Lula e concesse dal giudice di sorveglianza. Prima di ripartire è stato sentito dalla polizia nel carcere di Bado Caros. Con ogni probabilità ha risposto a domande sull'omicidio della figlia Luisa e il silenzio a Lula continua ancora. Non è bastato il duplice atto d'accusa di Laura Manfredi, non è bastato il messaggio «Qualcuno di voi ha ucciso Luisa», scritto davanti alla chiesa. Non è bastato urlare la propria disperazione, senza paura, chiedere perché, rivolgersi direttamente alla gente del paese. Luisa è morta e lei non vuole che sia dimenticata. Sardegna terra e sparo è de fogo e de sparo, Sardegna de terra. Vi saluta qui Daniele Biacchessi, testi ed interviste di Carlo Angioni, alla regia Giorgio Matteo. De fogo e de sparo, Sardegna de terra, e suoni d'amore. Dolorosa che...